sei proprio in lì, su che andiamo, nuova cosa, nuovo giro. Su, su, su, Billy, su. Quindi non capivo niente neanche io. No, mi ero accorto che in banda, sì, sì. Anch'io poco fa stavo facendo delle prove in banda. Innanzitutto, ciao, come stai? Ah, bene, grazie a Dio, bene, Fra. E tu? E anch'io, dai. Ho un periodo ho avuto un po' di coliche, ma è il periodo di agosto, non so se ci eravamo già sentiti. Poi quando ero in ferie, un po' di coliche renali, tanto per cambiare. E poi adesso sono così, una fase tranquilla, diciamo. Però ce li ho ancora dentro, Per andare in peggio è meglio così, dai. Sì, sì. Poco fa mi facevo un effetto strano, cioè ho messo un po' di musica per provare un po', per farlo scaldare, per vedere un po' i picchi di me. In banda laterale praticamente dopo un po' se ne andava con un po' di stazionarie, cioè regolate bene in AM dopo un po', e dando un colpettino all'apparato hanno smesso, non capisco cosa cavolo c'è. Diceva che saldatura ha messa male. Qualche saldatura a fredda qua, fuori stare fermi, questi apparecchi si rovinano, io intanto li accendo, adesso io stavo cantando, ho detto adesso entro, vediamo un po' se c'è gente, dai. E niente, sono ancora in coda, devo farmi una canzone, ma sono l'ultimo, quindi posso aspettare. Anche io, proprio per farlo scaldare ho messo un po' di musica, sul canale 15 poco fa, ho provato un po' in banda, un po' in AM, insomma tutte le bande, e ho notato che dopo un po' che salivano le stazionarie, ma quasi dal grosso, eppure regolate bene, in AM zero proprio. Cosa ne so, vabbè, anche questo qua stava dando una volta, praticamente si sono spenti due numeri della frequenza, quelli davanti, poi come l'ha acceso non l'ha più fatto, però una volta l'ha fatto, quando l'ha acceso deve essere c'era scaricato il condensatore, cosa ne so. No, ma fa anche questo, ogni tanto va via qualche numero, qualche barretta, poi riappare, sempre a colpettini, però sicuramente anche lì qualche saldatura, come dici tu, fredda, perché tocca non tocca. E chi lo sa, no, quello me l'ha fatto da quando era fermo, capito? L'ho lasciato troppo tempo fermo senza accenderlo e mi ha fatto quel difetto. Poi non l'ha più fatto, grazie a Dio, ogni volta che l'accendo adesso è sempre la frequenza è tutta intera. Sì, adesso poco fa l'ho fatto scaldare un bel po' ed è tutto illuminato, lo stesso colore, a volte qualche barretta invece di essere bella illuminata di verde, rimane un verde un po' più spento, come che se non passi bene la tensione. Come dici tu, purtroppo quando rimane fermo è così, vorrebbe aperto, pulito bene, ma gli ho messo un po' di spray per contatti e provare a ripiazzarlo, anche tutte quelle schede, quei cablaggi, no, che sono quelle prese con tanti piedini. Bisognerebbe staccarle, pulirle e poi rimetterle, una a una vogliono staccarle e pulirle, lo so, però vabbè, io già ne ho di tempo, adesso non c'è problema, però non l'ho fatto perché non mi piace aprirlo a me, il fatto di aprirlo mi dà fastidio, capito? Non mi piace aprire gli apparati. E infatti, poi io appena un colpettino leggero qui sopra, tac, e riappare tutto illuminato, frequenzimetro, là, con tutte le cifre. Quindi ripeto, sicuramente qualcosa del genere, niente di grave, però a volte ti rompe le scatole, quando ti manca qualcosa l'occhio va sempre lì. Allora io non ho apparecchio, mi avevo fatto tempo fa, mi facevo un ronzio, un rumore strano, l'ho aperto, gli ho rifatto un po' di saldatura, l'ho rinchiuso e non lo fa più. Sì, lo fesserie a volte, devi essere fortunato a beccarlo. Adesso mi senti bene, sì, come sempre. anzi, anzi mi danno anche qualche watt in più, non so perché. Sì, fra, ti ascolto bene, ti ascolto benissimo, ma purtroppo non mi posso trattenere tanto perché ti ripeto, sto facendo un contest e devo cantare. E sono l'ultimo della colonna che mi sono messo, quindi devo partecipare, se no faccio una figuraccia, mi sono iscritto per niente. No, tranquillo, vai, ci mancherebbe altro. Buona cantata, ci vediamo alle prossime, un abbraccio, ciao ciao. Ciao Fra, mi ha fatto piacere, dai, ci sentiamo. Cordialità e saluti a casa, ciao ciao. Grazie anche a te, altrettanto, ciao ciao.